Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Anche noi disabili. Mi chiamo Gian Piero Cerquiglini e sono non vedente, sono di Gualdo Cattaneo. Io ho un disagio sulla strada provinciale 415 che collega la E45 con i Monti Martani. E abito su questa strada e non ho la possibilità di camminare con il cane guida. Buongiorno, mi chiamo Anthony Cigolani e sono disabile. Vi ho lasciato il mio caso che riguarda Enel che mi ha mandato la corrente a casa a 380 volts. Immaginate cosa possa succedere a una persona che gli va la corrente a casa a 380 volts. Gli salta tutto e poi chiaramente cosa fa? Non ha acqua calda, non ha quelli che sono i servizi base di una casa civilizzata del nostro tempo e deve fare ricorso. Però il ricorso è una cosa lunga e per lui non è poi così facile muoversi e quindi si apre un altro problema. Questa mattina voglio dare conto, come avevamo promesso una settimana fa, del primo feedback, cioè della prima reazione che c'è stata da parte del pubblico, del variegato pubblico, alla nostra provocazione quando abbiamo detto «siamo anche noi disabili». Siamo anche noi disabili, anche se in realtà abbiamo tutti e quattro gli arti funzionanti, gli occhi mediamente in grado di distinguere con occhiali molto spessi chi ci circonda, l'udito non male, la capacità relazionale sì limitata, ma comunque ci permette di fare questo lavoro. Siamo tutti noi disabili, quindi siamo pronti a capire e a fare i nostri problemi di quella fetta della popolazione che comunque, sia in prima persona, sia per indotto, per familiari, persone care, persone a loro carico, sentono ogni giorno il problema delle persone che hanno una diversa capacità di percepire e di attraversare il mondo delle persone cosiddette normali, delle persone che in fondo non si pongono il problema. Abbiamo creato per questo un numero verde 800 002400, che vi ripeto perché questo è il primo punto d'entrata nella nostra idea di dare un ascolto e possibilmente portare l'attenzione di chi istituzionalmente può risolverlo il problema di chi ci chiama. 800 002400 e anche una mailbox anche noi disabili @radio24.it. In questa mailbox, in questo numero verde, abbiamo raccolto, c'è una segreteria telefonica, una serie di primi messaggi, prime richieste d'aiuto, prime dichiarazioni comunque di bisogno di essere ascoltati. E nel corso di questa trasmissione ne daremo per quanto possiamo conto. Vogliamo raccogliere segnalazioni di difficoltà, proposte, idee da sviluppare, anche situazioni da affrontare o anche qualcosa che funziona e noi vogliamo raccontarlo. A tra un istante. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 1212. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Sono Antonio, chiamo da Verona. Volevo semplicemente dire se si poteva fare una lista dei comuni incivili, cioè quelli che non permettono il parcheggio ai disabili nelle strisce blu, e poi metterlo online, così almeno tutti sappiamo regolarci quando andiamo in qualche comune, se è possibile lasciare la macchina con il regolare permesso in parcheggi blu, oppure no. Addirittura farne un altro dei comuni civili dove è concesso poter mettere la macchina con il permesso senza incorrere a contravvenzioni. Ecco, questa è una proposta. Un ascoltatore ci chiede una cosa, che fare un servizio in effetti non esiste. Potremmo farlo, potremmo crearlo. Chiederemo adesso all'Associazione dei Comuni Italiani se è possibile avere la mappa precisa, comune per comune, perché una persona che ha il contrassegno per il parcheggio per disabili sappia se può lasciarla nelle strisce blu senza timore di incorrere nei rigori di una contravvenzione, o si può circolare liberamente, o se deve, come a volte accade, avvertire qualcuno, chiamare il comando dei vigili, dire sono, ho questa targa, posso entrare nella zona a traffico limitato, posso parcheggiare nelle strisce blu, perché è singolare, ma su questa materia che è molto delicata è a discrezione dei comuni il deciderlo. Quindi molte volte le difficoltà che già ci sono oggettive di parcheggiare avendoci dei problemi comunque di autonomia nel movimento, avere anche il problema di dover capire se si può, non si possa parcheggiare. Questo è già un passo avanti, già un appunto che ci prendiamo. C'è qualcosa che non esisteva, visto? Noi abbiamo voluto mettere le mani in questa materia che è difficoltosissima, frastagliatissima, molto ambigua in tanti campi, perché quando si parla di persone non abili è un universo, sempre sotto la pregiudiziale che c'è qualcuno che guarda con sospetto quelli che fanno finta, quelli che simulano, quelli che se ne approfittano. Ci sono anche quelli, sarà anche nostro compito, se necessario, di fare distinguo, ma da questo punto di vista, invece che fasciarci la testa e guardare sempre l'aspetto oscuro della forza, cerchiamo se possibile di fare qualcosa. Primo passo avanti, cercare di fare in modo che possa esistere da qualche parte qualcuno che si prenda l'onere, e magari ci sta ascoltando, di fare il database dei comuni italiani per favorire e aiutare le persone che hanno un parcheggio per disabili. Poi sentiamo il primo ascoltatore che ci ha segnalato un caso. Paolo Ubertone, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Allora, il suo problema, ce lo definisca così capiamo se è un problema soltanto riservato alla sua sfera familiare o un problema che possiamo oggettivizzare, che magari è condiviso da varie persone. Allora, il mio problema è relativo a un servizio che già esiste, che è fornito dal SIL, Servizio di Inserimento Lavorativo. Mio figlio è afflitto dalla sindrome di Asperger, che è una sindrome che lo compromette fortemente dal punto di vista relazionale, ma che non è assolutamente invalidante dal punto di vista funzionale. Infatti è chiamata come un autismo ad alta funzionalità. Sì, conosciamo bene, diciamo, è una persona che può avere dei problemi nel mettersi in relazione con gli umani che gli stanno intorno a lui, però al contempo può specializzarsi e può diventare bravissimo in alcune attività, quelle che a lui piace fare, che fa bene, che riesce bene. Quali sono, diciamo, le cose che riescono meglio a suo figlio? Guardi, col computer si la cava benissimo, infatti in diversi colloqui ha fatto vedere le sue potenzialità a livello di applicativi di Office e sono tutti rimasti molto stupiti nell'utilizzo di questi software. Riesce a scrivere senza guardare la tastiera, fogli di Excel, riesce a compilarli senza problemi, cosa che io non sono assolutamente in grado di fare. Lei lo sa che la maggior parte dei programmatori, degli informatici, ma anche i grandi nomi, i creatori dei grandi imperi legati al digitale, sono tutti comunque in forma più o meno lieve degli Asperger, perché fa parte proprio di questa capacità eccessiva che hanno loro di concentrarsi su qualcosa che a loro piaccia molto. In questo caso suo figlio comunque potrebbe essere un perfetto operatore al computer, al di là del problema. Ha ragione, dottor Nicoletti, in quanto appena terminato il percorso scolastico ci siamo mossi e in maniera autonoma mio figlio è stato inserito in una cooperativa di tipo B proprio con funzioni di data entry, compilazione fatture e quant'altro, cioè tutto quello che riguardava un'attività che non lo mettesse in relazione con le persone, quindi un back office. Quindi mi sembra aver capito che, se conosco abbastanza il problema, In paesi molto avanzati addirittura fanno bandi di concorso per persone con Asperger, perché sono quelle che gli funzionano meglio in certe attività. Però hanno l'accortezza di creare degli ambienti lavoro adeguati. Sono persone che lavorano bene, ma non vogliono certo stare in un open space assieme a altre persone. È la loro maniera di lavorare. Se si crea un ambiente consono a quello che è la loro percezione dell'ambiente esterno, sono perfetti. Anzi, è il lavoratore che ognuno vorrebbe avere a sua dipendenza, perché non si stanca mai, è perfetto, non sbaglia mai, è ligio negli orari, inizia al momento di iniziare e finisce al momento di finire, quindi è perfetto da un punto di vista di chi vuole impiegarlo, o sbaglio? La sua analisi è perfetta, infatti comunque nell'attività che ha svolto per un anno al termine della scuola, che ha comunque portato a termine in maniera normale senza nessun tipo di problemi dal punto di vista didattico, ha svolto questa attività per un anno senza problemi, poi il contratto si è concluso e abbiamo cercato qualcosa di diverso. Ho fatto intervenire il SIL, che è il servizio di inserimento lavorativo, proprio per avere un supporto nell'inserimento. Dovrebbe gentilmente fermarsi col telefono, perché se lo mette in viva voce o altro poi sentiamo malissimo. Ah no, non è in vivo. Ecco, così, sia fermo così, così lo sentiamo bene. Perfetto. Ho provato a farlo prendere in carico al SIL. Dopo un quarto d'ora di colloquio, la dottoressa del SIL, che ha analizzato il suo caso, ha detto che mio figlio non era assolutamente idoneo all'attività lavorativa. Ho fatto presente che mio figlio aveva già avuto comunque un percorso lavorativo ed era stato giudicato più che abile. Perché non era idoneo per la dottoressa? Perché non era idoneo? Ecco, questo è il punto. È stato giudicato inidoneo perché non si sa relazionare. Beh, come dire un cieco perché non sa vedere. Guarda, uno sa sedere a rotella, non sa correre. Che discorsi, è chiaro. Ha usato le stesse parole che ho usato io con la dottoressa. Ho strabuzzato gli occhi e ho detto: dottoressa, mi scusi, ma forse non ha contezza del tipo di patologia che affligge mio figlio. Guardi che è proprio il suo problema l'aspetto relazionale. In altri momenti lavorativi siamo partiti dai punti di forza che conosciamo bene per poi lavorare sulle criticità. Ma era un medico legale questa dottoressa, cos'è? No, non conosco sinceramente la professionalità di questa dottoressa. Svolge la sua attività al SIL, cioè è una persona che quindi non era forse nemmeno un medico, era forse. Questo non glielo so dire, quindi, dottore. Comunque una persona ignorante che non conosce, che tra le varie disabilità esiste anche quella di tipo psichico-relazionale. Quindi com'è finita? Il problema qual è? Che la sua posizione al SIL è stata chiusa. Io mi sono mosso ancora autonomamente, ho trovato un altro posto di lavoro, in questo caso un back office in un ufficio postale privato. Tutte le carte erano pronte, serviva soltanto l'autorizzazione del SIL. Quindi il SIL non doveva fare altro che apporre un timbro e sovvenzionare ovviamente il training. Invece, siccome la sua posizione è stata chiusa, il lavoro che c'era gli è stato negato. E questo è veramente assurdo. E adesso suo figlio cosa fa? Niente, è a casa, sta partecipando a dei corsi di formazione, perché purtroppo sappiamo tutti che le disabilità sono un business, per cui continuano a promuovere corsi di formazione e io lo faccio comunque partecipare, perché tenerlo a casa a leggere o guardare il computer insomma non è una cosa piacevole, per cui cerco di fargli fare più attività possibili, però di fatto quell'occasione è sfumata, perché per una, diciamo, ignoranza del tipo di patologia da parte di chi doveva giudicare. Lei in che città vive lei? Io vivo in provincia di Milano, Cinisello Balsamo. Benissimo, questo è un caso, l'abbiamo definito, chiuso, non c'è altro da aggiungere, non c'è altro da dire. Lo sottoporremo all'attenzione di chi può in questo caso darci una risposta. C'è un ragazzo che è perfetto a svolgere un certo tipo di lavoro, anzi, posso dire, lo svolge in maniera inappuntabile, ineccepibile, più di ogni altra persona. Perché? Perché proprio fa parte del suo problema essere anche bravo a fare queste cose qua. È chiaro che un ragazzo ha messo in condizioni di lavoro favorevoli al fatto che lui lavori sereno. L'ignoranza di una persona che l'ha giudicato incapace di relazionarsi, grazie, è il suo problema, è questo, fa sì che non possa lavorare. Abbiamo sottratto al mondo del lavoro una risorsa che potrebbe essere molto utile. Questo è il primo punto. A tra un istante, andremo avanti. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Mi chiamo Michelangela, siamo da Roma e c'è un problema grande per i disabili, una fontanella che si trova sul marciapiede. Non si può passare oltre perché non c'è neanche uno scivolo dal marciapiede. questo problema l'abbiamo segnalato in tutti i modi, anche dalla biblioteca abbiamo fatto partire un esposto per questo, questa ingiustizia, diciamo, e la fontana è lì a bloccare tutti quelli che vorrebbero camminare, vorrebbero attraversarla. Quindi io lo dico a voi. Questa è un'altra segnalazione. Voi passate per un marciapiede di Roma, vedete una fontanella, vi abbeverate, che bello, fa parte del colore locale. Quella fontanella è un ostacolo insormontabile a qualcuno che deve passare con una carrozzella. Voi direte, ma che ci importa, se ne stia a casa, faccia il giro. Come volete, questo è il vostro punto di vista probabilmente. Noi invece, siccome ci sentiamo anche noi disabili, ci mettiamo, ma perché non perché vogliamo fare i buonisti, perché vogliamo... per forza star dalla parte di quelli che meritano una medaglia, no, perché abbiamo provato a immedesimarci in questa signora che non può passare per questa strada e fa esposti, chiama, telefona ai vigili, ma quella fontanella rimane sempre lì e quella strada rimane sempre per lei interdetta. Ricordo che Radio 24 ha creato un'iniziativa, anche noi disabili, c'è un numero verde a cui potete chiamare per segnalare. Noi in questa fase a Melog esponiamo i casi, poi i colleghi del giornale radio andranno caso per caso in quelli che reputeranno più interessanti o più possibili di un riscontro con qualcuno che sia responsabile, come il caso del signore di poco fa, che ha un figlio perfettamente in grado di lavorare, non poteva lavorare perché un'operatrice ha detto no, questo non si può relazionare, come ci fosse, non ci fossero lavori non è indispensabile la relazione con i propri colleghi. Beh, il numero, lo ricordo, è 800 002400, 800 002400, la mailbox a cui potete scrivere anche noi disabili @radio24.it. Ho al telefono adesso un ascoltatore, Giampiero, buongiorno. Buongiorno dottor Nervoletti. Il suo caso. Io mi chiamo Giampiero e sono non vedente, ho una bella età, 58 anni. Vabbè, più giovane di me, ringrazi la Madonna, che vuole. È un ragazzino. Eh sì, molto. Vabbè. Comunque, il mio caso è un vecchio quanto la mia disabilità. Io abito a Gualdo Cattaneo, provincia di Perugia, e attualmente, diciamo, sono residente da molto tempo nella mia casa qui lungo la provinciale 415, la provinciale che unisce la E45 con i Monti Martani, praticamente. È una strada molto trafficata, molto transitata, sui centri urbani addirittura ci sono i limiti di velocità a 50 km orari, ma non li rispetta nessuno. Lei le passa la strada davanti casa, mi sembra aver capito. Esatto. Una strada ma trafficata. Sì, allora io questo caso l'ho segnalato al comune di residenza. Ma qual è il suo problema? Il mio problema è che non posso uscire di casa da solo, nemmeno per fare due passi, e ho dovuto anche rinunciare all'uso di un cane guida che mi era stato affidato dalla Lions Club di Milano a giugno scorso. Io avevo fatto domanda. Perché? Perché le macchine passano a raso davanti alla porta di casa sua? Sì, ma a 4 metri dal muro del palazzo, 5 metri dal muro del palazzo. Ecco, ma qual è la soluzione per poter... Non ci sono marciapiedi, non ci sono corsie preferenziali, non c'è nulla. E cosa dovrebbero farle secondo lei? Allora, io ho proposto al comune di Gualdo Cattaneo, infatti adesso vado su perché devo fare un incontro con il sindaco di Gualdo, ho proposto di partecipare anche con idee, progetti, a una modifica di questo centro, urbano, che è uno snodo praticamente, perché unisce la E45, come dicevo io, con... Quindi lei propone proprio una soluzione di deviazione della strada, una soluzione impegnativa? Sì, questo c'era anche perché io sono dipendente, non mi lamento, economicamente sto bene, però diciamo c'era una proposta di molti anni fa di una, diciamo, variante, però non è stata accettata, non è stata fatta. Certo, io sono onesto, Giampiero, la vedo un po' complicata che un comune cambi il corso di una strada, non lo so, tutto può essere, poi adesso sentiremo che risposte daranno, poi richiameremo noi. Che cambi il corso di una strada per questa difficoltà, non lo so, come possono fare secondo lei? No, però per un interesse generale c'era la proposta di fare una variante, non è stata accettata per motivi, non so, forse politici, forse economici, il comune non era contento. Comunque avranno una giustificazione tecnica. C'è una giustificazione. Comunque adesso riparte il discorso della modifiche a questo incrocio di Ponte di Ferro e dovrebbe essere messo in bilancio forse nel 2016-2017. Io dico, ma tra qui e 2017 io potrei anche cambiare casa, morire, non so, succede di tutto nella vita, no? Beh, vince anche però, il la lotteria e comprarsi un palazzo un'altra parte, non è mica sempre soluzione. Però fino a che ho il lavoro qui, io lavoro qui nel centrale di Bastardo, chiamata così. Sì, ho capito, dunque mi sembra, la riassumo, perché se no lei chiederebbe un'accelerazione di questa variante per poter permettere a lei di vivere tranquillamente la sua vita senza il rischio che, come mette il naso fuori casa, passa un camion e la porta via. Vediamo cosa le risponde il comune, poi al prossimo giro sentiremo anche noi se la sua è una proposta plausibile o se no in effetti obiettivamente chiede troppo. Non possono fare una variante per un cittadino, anche se fortemente bisognoso, perché è una cosa probabilmente impegnativa. Altro ascoltatore, Anthony, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Anthony e sono un disabile motorio. E ho deciso di scrivervi perché quello che mi è successo penso che sia utile non solo ai disabili ma a chiunque. Il 7 settembre Enel Distribuzione mi ha mandato in casa, anziché 220 volt, 380 volt. Ah, e questa l'avevo mandata in copertina, la sua chiamata nella segreteria. Quindi le è arrivata improvvisamente una botta di corrente esasperata. Esatto. E che è successo? Sono saltati la gran parte degli elettrodomestici. Gli ha fuso casa praticamente. Sì, praticamente sì, ho chiamato Enel. Dovete sapere che Enel non c'è un numero in bolletta. Se prendete la bolletta non vedete un numero per i sovraccarichi, ma c'è solo un numero per in caso di distacco di corrente, quindi uno non sa cosa fare. Ho chiamato Enel, c'è un messaggio automatico, alla fine in un menu che non spiega il caso dei sovraccarichi, tu devi dire che hai avuto questo. Loro hanno negato che c'era il problema e mi hanno detto riattacchi pure la corrente, quindi io continuavo a riattaccare la corrente e continuavo a bruciare elettrodomestici. Qualcuno ha stabilito che il problema sia un problema Enel del Lidl? Sì. Sì, perché purtroppo è successo due giornate, il 7 e il 15 settembre, quindi sono già passati due mesi. E la seconda volta che ho richiamato, stavolta agitato perché pensavo prendesse fuoco la casa, stavolta sono usciti e i tecnici mi hanno spiegato, lo dirò in parole povere, che siccome Enel manda la corrente tramite delle cabine elettriche a 380 volt, poi nelle cabine viene attraverso apparecchi trasformata a 220 e mandata nelle case. Vabbè, c'è stato un disguido tecnico, ma solo casa sua è accaduta questa sorta di... No, siamo più persone. Poi parlando con i miei vicini ho scoperto, per esempio sotto di me c'è un ristorante e anche loro hanno... E gli altri cosa fanno adesso rispetto a lei? Ma io volevo allora sottolineare intanto che essendo disabile ho perso la mia autonomia, per cui adesso per esempio per lavarmi mi tocca tornare a casa dei miei genitori e quindi ho perso l'autonomia che avevo prima. Non ho riscaldamento, quindi la casa è fredda. Enel ci ha risposto perché io e il mio vicino abbiamo preso un avvocato e gli abbiamo scritto, ci hanno risposto una lettera vaga in cui il nostro caso sì, verrà valutato e che al più presto verremo contattati dalla loro società. Lei dove si trova esattamente? In che città? Padova. A Padova. Allora abbiamo il nostro ascoltore Giampiero da Padova, disabile, motorio, che ha avuto fulminati tutti gli elettrodomestici a casa sua per un problema dell'Enel che l'Enel ha riconosciuto. Però l'Enel, mentre le pratiche burocratiche vanno avanti per capire, stabilire, vedere, è senza elettrodomestici, senza acqua calda e soprattutto è assolutamente impossibilitato ad affrontare l'inverno. Tra l'altro una caldaia nuova penso che costi parecchio, perché lei dovrebbe comprare una caldaia nuova per avere l'acqua calda come minimo. Ma provi a immaginare un disabile grave attaccato per esempio alla corrente e gli bruciano, che ne so, una pompa di infusione o un respiratore. Cioè, io vorrei che questo caso diventasse un esempio perché Enel risponda, non faccia come ha fatto con me, che ti risponde dopo mesi e ti dà una PEC per comunicare. Ci vorrebbe un numero in bolletta, questo è il problema. La Enel dovrebbe mettere un numero in bolletta dove in casi di sovraccarico la gente può chiamare. Questo è un suggerimento tecnico, però a noi interessa in questo momento che il caso del nostro ascoltatore Anthony Civolani di Padova sia in qualche maniera affrontato. Noi qui lo esponiamo e riproporremo la cosa quando avremo qualche elemento in più, come facciamo. Andiamo avanti, abbiamo un altro caso. Simona, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono una dipendente del Comune di Milano, faccio l'insegnante da 28 anni. Ho un ragazzo autistico di 16 anni che quest'anno frequenta la prima classe della scuola superiore. Che disabilità ha suo figlio? Ha una disabilità, è autistico con una un'epilessia farmacoresistente piuttosto importante, non parla, e un grave si dice una grave disabilità. Che classe frequenta? Classe frequenta? La prima della superiore, di un istituto tecnico a indirizzo cinema di Milano. Sì, qual è il problema? Com'è? Qual è il problema, a parte il quotidiano? Allora, il problema è questo. Da quest'anno abbiamo fatto l'inserimento dalla terza media per inserire Matteo a scuola. Si sa che si parte molto in anticipo, quindi già dall'inverno scorso in sostanza. A fine maggio vengo chiamata dai miei superiori, dirigenti del Comune di Milano, che mi comunicano che io sarò trasferita in un'altra zona rispetto a dove sono adesso. Che lavoro fa lei? Io faccio l'insegnante di mosaico, trompe-l'œil, decorazione di interni al Comune di Milano, facciamo formazione per il lavoro. Quindi una dipendente del Comune di Milano? Dipendente del funzionario, sì, del Comune di Milano da 28 anni. Mi comunicano questa cosa, che hanno intenzione di trasferirmi, e questa scuola dove dovrei andare è molto lontana da dove sarà poi stato, dove è stato poi in effetti inserito e dove avevamo già fatto tutto l'insegnamento. Inserimento di lavoro eccetera di Matteo, e io non posso stare molto lontana da Matteo, perché se insorge un qualsiasi problema, soprattutto una crisi epilettica grave. Sì, ma questo è chiaro, la scuola nessuno ci mette le mani, perché non c'è una persona che dà il farmaco. Tra l'altro io non ero abituata a questa cosa. Dai, signora, le dico, non è perché voglio, ho lo stesso problema in famiglia, so di che si tratta, quindi. Lo so, immagino. Quindi. E praticamente no, ma io fino a quest'anno non avevo mai avuto problemi di questo tipo, perché ho trovato scuole e persone disponibili. Cosa chiederebbe? Le chiederebbe di, se possibile, allora, restare al suo posto, che deve pensare a suo figlio, ecco. Esattamente, cioè questa è la cosa fondamentale, perché già le difficoltà sono grandissime, lei lo sa, quando i ragazzi crescono e soprattutto legati a un... Lei dice un figlio disabile gravissimo, me ne devo occupare esatto. Non esiste una struttura capace poi di prenderlo in gestione, quindi se possibile trasferirmi in questo momento. Ho trovato già una scuola che lo terrà per 5 anni, che mi sembra già una cosa meravigliosa. Che è prioritario nella sua vita rispetto a ogni altra cosa. Quindi io questo posso caso... lavorare solo a queste condizioni, cioè di poter rimanere nei paraggi, perché altrimenti devo, come ha fatto tanti miei colleghi di sventura, smettere di lavorare, anche tante mamme smettere di lavorare. Allora, quindi questo è il terzo caso. Il terzo caso della nostra ascoltatrice è molto chiaro, li stiamo definendo e sintetizzando. Ha un figlio disabile grave, ha finalmente trovato una scuola dove ha un buon inserimento, è una scuola che lo terrà per 5 anni, quindi è un problema sull'abilitazione di suo figlio fondamentale. Suo figlio avrà una possibilità di lavorare sulla propria autonomia fortissimo. Lei, per l'epilessia farmacoresistente, suo figlio deve stare sempre a disposizione, perché se il ragazzo ha un attacco epilettico non ci mette le mani nessuno a scuola, ma chiamano lei a casa, venga, corra, suo figlio ha un attacco epilettico, perché i farmaci a scuola non c'è chi li dà, non ci sono problemi. Questo spero che corrisponda alla sua realtà, non voglio inventarmi cose, però... Certo, è così. Quindi lei dice, io devo stare a portata di mano di mio figlio, e quindi il trasferimento per me significa o smettere di lavorare o non potermi occupare più di mio figlio. È chiaro. A tra un istante, ci fermiamo un secondo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Sono un disabile di Laurena di Borrello, mi chiamo Morabito Antonio. Sono impossibilitato quando piove a entrare in casa mia, perché la via dove abito diventa un fiume in piena quando piove. Ho fatto denuncia ai carabinieri, e dal 1997 che faccio denuncia al comune, ma non si muove niente. Ora, chissà se si muoverà ascoltando la nostra trasmissione, chissà se nemmeno noi avremmo possibilità di cambiare anche delle piccole realtà, che volte è più difficile affrontare l'iter burocratico e poi apporre realmente un intervento rispetto a una strada che si allaga. Una persona che rimane paralizzata a casa non può più uscire, per lui la vita finisce finché non si prosciugano le acque. Ricordo il numero verde di questo segmento di tutta Radio 24, anche noi disabili, in cui l'intera radio si prende in carico di ascoltare e di dare visibilità a casi di persone che normalmente nessuno ascolta. Il numero verde è 800 002400. La mailbox che vuoi scrivere è anche noi disabili @radio24.it. Roberto, buongiorno. Buongiorno, saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Il suo problema? Allora, no, il mio problema è più che altro un problema di pensioni, nel senso che ho 54 anni e 35 anni di servizio. Mia moglie è paralizzata per effetto di un attacco della sclerosi multipla. E sto finendo, tra un po' finirò tutti i permessi che mi permette la legge. Quelli della 104? Legge 104, in particolare l'articolo 42. Io sono particolarmente fortunato, devo ammetterlo, perché sono un dipendente statale. Per fortuna io non ho mai abusato di questo istituto, e per cui in questo momento mi viene in aiuto. Il problema è, non potendo andare in pensione adesso, come potrò fare un domani se mia moglie non migliora? Dovrò costringere mia figlia a fare la badante? Cioè, mi sembra il tema sia questo: siete ancora giovani, molto giovani, sia lei che sua moglie, relativamente giovani rispetto diciamo, all'età pensionabile. Quindi lei deve lavorare molto, ha molta vita lavorativa avanti. E pochi giorni di 104 rimasti, perché è un numero di giorni limitato. Ci verrà un giorno che io, anche se non ne abuso, che finirò i giorni della 104, quindi dovrò scegliere o andare a lavorare o occuparmi di mia moglie. Cosa devo fare? Ecco, è una paura che è costantemente presente, come me credo che ci siano anche altre persone. No, a me mi fa abbastanza rabbia poi pensare che in realtà, se uno guarda i numeri delle persone che hanno usufruito della 104 in grandi carrozzoni pubblici, come appunto i trasporti a Roma e via dicendo, era orribile, percentuali altissime, tutti venerdì, naturalmente tutti avevano una parente, una nonna, una zia, una vecchietta da assistere. L'abuso che c'è stato su questa cosa è terrificante, però esiste anche il problema concreto e reale: una persona giovane con una moglie giovane con un'invalidità grossa. Che, non so se l'ho detto, io ho 35 anni di servizio, per cui, facendo una battuta qui, la paura fa quota 90 volta. Lei potrebbe già andarci in pensione, quindi con 35? No, al momento no. Quanto le mancherebbe ancora? Secondo la legge Fornero avrei diritto ad altri 13 anni di lavoro. Beh, diritto, perché sono ad avere diritto alla pensione, una pensione decente. Per quanto riguarda la pensione anticipata, sarebbero 6 anni. Sì, però dice perché devo prendere un pezzo di pane di pensione quando sono giovane e posso lavorare. Capito perfettamente. Classifichiamo anche il suo problema. Io non ho uno spettro di competenze per dare risposte a tutti, però intanto faccio il mio lavoro. Porto all'attenzione di chi ci ascolta dei problemi, perché molte volte nella particolare frammentazione di questo grande mondo non è che tutti abbiano sott'occhio e consapevolezza di tutti i problemi. Chiudo con Monica. Monica, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno, grazie. Ecco, con lei voglio chiudere, diciamo, con qualcosa che non è specificamente un problema, ma è qualcuno che si sta dando da fare per risolvere i problemi. Monica Gavazzeni, lei ha creato un sito che crea una sorta di mercato dello scambio o dell'attrezzatura usata per disabili. Esatto, siccome conosciamo bene questi problemi per i disabili, abbiamo pensato bene di creare questa piattaforma per creare annunci gratuiti di vendita di attrezzature per disabili, anziani o per riabilitazione. Quindi, sapendo quanto possono costare, quanto tante volte lo Stato, l'ASL è assente nell'aiutare le famiglie. Quanto molte volte le ASL pagano 10 volte tanto queste attrezzature, perché tanto esatto, sono soldi pubblici. Allora, il sito è www.piazzabile.it. Esattamente come funziona? Funziona come un qualsiasi sito e-commerce, nel senso che sì, ci si registra e si può pubblicare, mettere in vendita o cercare una particolare apparecchiatura. Ci sono tre tipi di annunci: vendo, cerco, regalo, che è la cosa che più noi piace, per cui si può trovare di tutto, tutto quanto serve nella vita quotidiana di chi è disabile anziano, da deambulatori a carrozzine, a stampelle, a tutori, a cose poco costose, a cose molto costose come montascale. Quindi voi vi siete, diciamo, in qualche maniera siete andati a riempire una nicchia che non era coperta da nessuno. Esiste probabilmente un numero grossissimo di presidi per disabili che non servono più, non si usano più o magari andrebbero buttati, o altri che potrebbero avere magari possibilità di acquistarli a dei prezzi molto più vantaggiosi. Avete messo, diciamo, la domanda e l'offerta in collisione. Quante persone stanno usufruendo del vostro servizio? Ah, attualmente abbiamo circa 4.000 annunci e ci sono molti scambi, però avremmo bisogno, vorremmo anche che diventasse una piattaforma conosciuta da tutta Italia, perché più siamo meglio è, perché così tu puoi cercare una carrozzina e trovarla nella tua città facilmente. Allora facciamo così, guardi Monica, io ridò l'indirizzo www.piazzabile.it, ci sentiamo fra qualche settimana per sapere se da questo nostro annuncio c'è stato un incremento di lavoro e quindi di utilità nella sua piattaforma. Alla prossima!